attenzione e mi rivolgo al governo, a quello che sta accadendo, perché si sta gestendo la situazione in modo imprudente, la situazione è molto seria e questo non è il modo di condurre la trattativa, perché stanno avvenendo trattative separate, bisogna fare molta attenzione e lo dico allo stesso Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, di intervenire direttamente, perché noi siamo gente responsabile ma si vede benissimo che cosa sta accadendo, per cui vedete di intervenire al più presto.